Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati da Valeria De Rosa e da Annarita D'Ambrosio. Globetrotter di luglio lo abbiamo dedicato al mare italiano. Globetrotter di agosto invece è dedicato alle mete straniere. In qualche caso anche più fredde, un clima più rigido nonostante l'estate. Abbiamo deciso di riportarvi in Svezia per sfatare qualche falsa credenza, per confermarne qualche altra, per farvela ascoltare attraverso le parole di un italiano che ha scelto di viverci. Daniele Purrone cura il sito Un italiano in Svezia, sottotitolo Le avventure di un immigrato. Sentiamolo al microfono di Valeria. Mamma mia! Annarita, in piena calda estate, speriamo a ogni latitudine del paese, vi portiamo in Svezia, dove d'estate non si boccheggia. Ma questo è un vantaggio enorme. Assolutamente sì, però si prende anche il sole e dove d'inverno, ahimè, le temperature vanno parecchio giù. Città perfetta per essere girata in pochi giorni, ma che può essere un valido punto di partenza per un giro esplorativo. Questa è Stoccolma, una città family friendly. Io l'ho visitata portandomi dietro un pancione di quasi 7 mesi. Per raccontarvela meglio, però, questa volta ho scomodato un connazionale che qualche anno fa ha scelto la Svezia come seconda patria. Lui si chiama Daniele Purrone, ha un blog, Un italiano in Svezia, Le avventure di un emigrato, dove oltre a consigli pratici potete anche leggere qualche stranezza tutta svedese. Ecco a voi Daniele. Io sono arrivato in Svezia nel 2009, dopo che per un paio d'anni avevo iniziato a frequentare Stoccolma spesso. Ho proprio preso la passione per questa nazione. Nel 2009 non vedevo un futuro molto roseo in Italia, nonostante avessi un ottimo lavoro in un'ottima compagnia. Sentivo una grande insoddisfazione, quindi mi sono detto: ho 35 anni, o lo faccio adesso o non lo faccio mai più, prendo, mollo tutto e vado. E l'ho fatto. Mi sono trasferito a luglio, a settembre, ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata la mia futura moglie, quindi quella che era stata proprio un'idea un po' folle dell'inizio è diventata un'idea definitiva. A questo punto non mi schiodo più. Senti Daniele, noi in questa nostra parentesi dedicata alle città e ai viaggi vogliamo capire qualcosa di più invece della città, e partiamo da Stoccolma, anche se poi tu ti sei spostato e ci parlerai anche di quella che è invece la tua attuale residenza. Però partiamo da Stoccolma. Che impressione ne hai avuto la prima volta che sei arrivato? Quando arrivo a Stoccolma mi portano direttamente nella città vecchia, che è una cosa davvero suggestiva. È fondamentalmente una piccola isola, gli svedesi la chiamano Gamla Stan, che vuol dire appunto città vecchia, e su questa isola è nata Stoccolma. Prima impressione è proprio: oh, che posto meraviglioso, mi piacerebbe vivere qui. Ovviamente poi Stoccolma non è solo la città vecchia, perché Stoccolma è molto più grande di quello. Ci sono parchi, ci sono canali, c'è il lago, c'è la parte di mare. Però proprio il primo impatto è stato con la città vecchia e con quelli che per me all'epoca erano canali. Adesso poi ho scoperto che erano in realtà un lago che confluiva in un fiordo marino. E il primo impatto è stato proprio meraviglia, mi piace tantissimo. Poi quella sera stessa mi hanno portato fuori in dei locali, ho cominciato ad apprezzare anche la vita notturna di Stoccolma, che secondo me è molto interessante. È anche un po' particolare perché è una nazione che ha una doppia relazione con l'alcol, amore e odio, nel senso che la sera, soprattutto nei fine settimana, escono tanto e bevono tanto, ma al tempo stesso c'è una forte mentalità di non puoi bere troppo, altrimenti ti sbattiamo subito dai locali. Stoccolma è una città che secondo te va vissuta, diciamo, camminando, o ci sono anche molti musei dove cercare di farsi un'idea di quella che è non solo la città ma anche un po' il paese e la cultura svedese? Ci sono sicuramente alcuni musei importanti, c'è il Museo Nordico che è nell'isola di Djurgården, che è decisamente interessante perché ti fai un'idea della Svezia attraverso gli anni. C'è il Museo del Vasa, gli svedesi sono stati geniali, da uno dei loro più grandi fallimenti sono riusciti a costruire un museo veramente suggestivo e speciale. Il Vasa era una nave da guerra che doveva essere la più bella, la più maestosa, la più potente di tutta la flotta, mentre la Svezia era in guerra con la Polonia, la Russia. Durante il viaggio inaugurale, uscita da Stoccolma qualche centinaio di metri, si è inabissata immediatamente perché era stata costruita male. L'hanno ritrovata negli anni 50, l'hanno tirata su e ci hanno costruito un museo attorno, l'hanno restaurata, il museo è molto bello e molto suggestivo. A me piace molto il Museo delle Armi, dove comunque, anche se specialmente il Museo dell'Esercito, comunque ti fai un'idea della storia del paese, perché comunque è un paese che ha avuto una storia di tipo militare. C'è Skansen, che è veramente particolare, c'è questa grande isola parco che è Richard Gordon, dove è anche l'ambasciata italiana, fra le altre cose. In questa isola parco, fra le altre cose, hanno costruito questo museo all'aria aperta, Skansen, dove tu hai la possibilità di vedere come si viveva nella Svezia rurale di un tempo. Durante l'estate lo aprono e diventa un po' una specie di centro per happening culturali, per famiglie, fanno addirittura matrimoni drop-in, dove una persona ci può presentare, due persone si possono presentare, sposarsi. Sia questo tipo di museo che il Museo Vasa sono due musei dove i bambini impazzirebbero. Sì, assolutamente, sì. Soprattutto Skansen, direi, perché ovviamente all'aria aperta ci sono animali, ci sono cose così, ma anche il Vasa può essere decisamente valido per i bambini da vedere. Diciamo che in generale non viene smentita la fama di paese che è molto ospitale, molto accogliente ed ha delle politiche davvero ottime per i bambini. A livello turistico è sicuramente ottimo per i bambini, nel senso tu vai in particolare a Stoccolma, Stoccolma è veramente a portata di bambino, c'è tanto verde, i bambini hanno molti spazi per giocare, ma poi in generale in tutta la Svezia dovunque vai ci sono piccoli parchi con giochi per bambini. È il paese di Astrid Lindgren, Astrid Lindgren l'autrice di Pippi Calzelunghe e di mille altri romanzi o storie di bambini. Qui in Svezia sono una specie di orgoglio nazionale, loro ci tengono molto ad essere una nazione dove i bambini crescano bene. Daniele, a un certo punto tu ti sei trasferito da Stoccolma e allora intanto dici subito qual è la pronuncia esatta della città dove ti sei trasferito, perché in noi genera qualche problema. Beh, la pronuncia è Malmö, con quella la O con i due punti sopra, che a differenza che in tedesco non è da considerare come una dieresi, ma è proprio una vocale a sé stante a questa pronuncia, che è una E. Per chi viene a Stoccolma tu suggeriresti anche di allungarsi un po', quindi di prendersi un po' di tempo e venire a vedere anche Malmö? Beh, fra Stoccolma e Malmö sono, diciamo, parecchie ore di viaggio, non sono proprio attaccate, sono col treno che va da bene, sono 4 ore e mezzo, in aereo ci sono aerei economici che volano fra Stoccolma e Malmö regolarmente. Se uno ha sicuramente qualche giorno in più e vuole vedere qualche lato in più della Svezia, assolutamente sì, anche perché Malmö, come tutto il sud della Svezia, è molto particolare rispetto al resto della nazione, perché fino al 600 abbondante era parte della Danimarca, quindi l'architettura è diversa, la lingua è diversa, anche se sono tutte due versioni dello svedese. Qui fra l'altro è anche diverso a livello climatico, c'è una natura differente, molto più verde, arriva prima l'estate, meno freddo e anche più ventoso. Poi Malmö è in una zona un po' particolare, perché Malmö è presa in mezzo fra Copenaghen e Lund. Lund è la storica città culturale con un centro storico meraviglioso e Copenaghen ovviamente un'altra grande capitale, quindi se uno ha qualche giorno in più, farsi un giro più nel sud della Svezia è sicuramente meritevole. Visit Sweden /Stoccolma/ per tutte le segnalazioni dettagliate per la vostra vacanza in questo 2017. Questa settimana, la prima di agosto, siamo andate a cercare cosa potrebbero fare i vostri bambini in città, perché magari voi dovete lavorare e non avete nonni o zii a cui affidare i vostri figli. con una premessa però necessaria. La settimana di Ferragosto è pressoché impossibile trovare un campus o un centro a cui affidare i piccoli. Fino all'11 agosto però qualcosa c'è. Per esempio a Milano l'associazione sportiva dilettantistica Scuderia La Colombera organizza campus alla scoperta di pony e cavalli. Dai 4 ai 16 anni e non solo montare ma anche la pulizia e la sicurezza e la gestione del cavallo. I campus riprendono poi il 21 di agosto. Stessa data per la riapertura dei campus di Chicolle Lab, sempre a Milano in via Fratelli Bronzetti. Una gita diversa per ogni giorno della settimana e la possibilità molto comoda di iscrivere i bambini anche per giorni singoli. Lasciamo Milano e ci spostiamo a Roma. Anche qui vale la premessa della settimana di Ferragosto, però fino all'11 e dal 21 il Museo dei Bambini è pronto a ospitare i vostri piccoli. Explora si trova in via Flaminia e quest'anno ha in serbo viaggi che attraversano la scienza e arrivano fino in cucina. A Casal Palocco poi, non proprio in centro città, però dal 12 giugno e per tutta l'estate è aperto il Circus Summer Camp. Circo ovviamente e poi hip hop, breakdance, piscina e anche mare. Le nostre segnalazioni per un weekend al mare. Questa settimana la segnalazione in verità è doppia e riguarda la Sicilia. Partiamo dalla prima, che non ha vincoli di date. In provincia di Messina c'è una laguna salmastra che cambia forma sotto la spinta del vento e delle maree e una striscia bianca di ghiaia e sabbia segna il confine, pensate, tra il lago e il mare. Stiamo parlando dei laghetti di Marinello che fanno parte della riserva naturale orientata a Laghi di Marinello e si trovano all'ombra del promontorio di Tindari. Cercate le foto su internet perché sono davvero un incanto assoluto. A San Vito Lo Capo invece dal 15 al 24 settembre si svolgerà la 20ª edizione del Couscous Festival. Sul sito sanvitoweb.com si legge che il Couscous Fest nasce dalla voglia di mettere attorno ad un semplice piatto della cucina mediterranea la passione per il cibo, lo scambio culturale e l'integrazione tra i popoli. Concerti gratuiti e tante occasioni di discussione. Ovviamente non c'è solo il couscous, ma ci sono tanti altri piatti cardine della cucina siciliana. Di solito il festival registra il tutto esaurito, quindi se pensate di andare per godervi la spiaggia meno affollata, potreste trovarla piena come in un weekend di piena estate. È tutto per questa puntata, alla prossima!